get a good feeling, yeah. Yeah. Il coordinamento lesbiche romane presenta I get a feeling that I never, never, never, never had before, no, no. È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto. I just wanna tell you right now that Trasmissione autogestita sugli 87 e 900 di Radio Onda Rossa. Ciao a tutte da Deborah e Laura e benvenute alla nostra 55esima trasmissione. Mentre continuano gli attacchi della Chiesa Cattolica al mondo gay e lesbico per l'organizzazione del World Pride a Roma, come ci racconterà Laura dopo, il Parlamento europeo irrompe nell'accatto politica italiana e rende chiaro quanto il nostro paese sia culturalmente arretrato rispetto ai propri cugini europei. Nel frattempo si sono concluse da poco le tante iniziative che hanno avuto luogo in occasione della Festa Internazionale della Donna, non ultima quella organizzata anche dal coordinamento lesbiche romane a Roma presso la Casa Internazionale della Donna. Estremamente interessante, per l'introduzione di Giovanna Olivieri del CLI e delle donne dell'associazione Zora Neale Hurston, nonché per la simpatia dell'autrice Valeria Viganò, la presentazione di Il piroscafo olandese. Davvero bello questo libro, avvincente e scritto con uno stile a volte scarno ed essenziale, ma nello stesso tempo in grado di toccare punti di lirismo davvero piacevoli. Nonostante sia permeato da una storia triste come la fine di un amore, risulta essere un inno alla vita, che fa seguire ad ogni evento tragico un evento di riscatto. Alla morte segue una nascita, ad un duplice tentativo di suicidio una forte volontà di ricominciare. Alla fine di un amore, una nuova storia, che sembra riprendere dalla prima solo la sua parte migliore. Un libro importante, che non passa per un faticoso coming out e per un percorso di accettazione, ma che fa del lesbismo della protagonista un dato di fatto, punto di origine e di arrivo di tutta la narrazione. Discreto, proprio perché sempre presente, senza bisogno di giustificazioni o ostentazioni nei riguardi del mondo esterno fatto anche di amici eterosessuali, di droga e di una città fredda e liberale come Amsterdam. Il lesbismo è semplicemente parte integrante del tentativo di ricostruire una vita dopo aver toccato il fondo della disperazione, originato dall'abbandono dell'amata che sceglie di avere un figlio con un uomo, come simbolo della ricerca di una vita senza più negazioni e rinunce apparenti, ma nemmeno coraggio e l'affermazione del proprio desiderio, e quindi approdo della maggiore delle negazioni e delle rinunce, il soffocare la propria vera natura in favore di un cammino che sembra più rassicurante. L'abbandono dell'amante è quindi per la protagonista più della fine di un amore ed il suo ritorno alla vita è lento e faticoso, ma si ha voglia di leggere il libro quasi tutto di un fiato, proprio per coglierne l'evoluzione e le conquiste quasi quotidiane. Bellissima l'immagine del piroscafo olandese che dà origine al titolo. Originata dal racconto di una donna fantastica e da un viaggio vero fatto sullo sfondo di una guerra terribile, diventa il simbolo della capacità di perdersi nell'immaginazione e quindi di quella di vivere i momenti più intensi dell'esistenza, siano essi dolorosi o felici. Bello il libro, bella la descrizione dei paesaggi del nord e bella la caratterizzazione dei personaggi femminili. Alla domanda se il libro era autobiografico, Valeria ha risposto che lo è come tutti i libri lo sono, che descrivono gli avvenimenti vissuti in prima persona o quelli che sono stati in grado di emozionarci raccontati da altri, o quelli semplicemente vissuti nella nostra immaginazione. Fourteenth Street, the garbage swirls like a cyclone. 3 o'clock in the afternoon, and I am going home. F train is full of high school students. So much shouting, so much laughter. Last night's underwear in my back pocket, sure sign of the morning after. Take me home. Take me home. A lullaby, feel free to listen to me, yeah. Feel free to stare. A I live in New York, New York, city that never shuts up. In the daylight everything is so gory, you can hear snatches of strangers, sorry stories. And I moved there from Buffalo, but that's nothing, the trico plant moved to Mexico. Left my uncle stand down the club, said here's your last paycheck, have fun growing old. Take me home, take me home, leave me there. Yeah, and even when I cry, don't know why, think I'm gonna sing myself a lullaby. Feel free, listen, yeah, feel free to stay. Rock-a-bye, baby, in the tree I love. When the wind blows, the cradle will rock off. When the bow breaks, the cradle will fall off. And down will come, baby, cradling our love. Youth is beauty, money is beauty, how beauty is beauty. Sometimes it's the luck of the draw, it's the natural law. It's a joke, it's a crime. I was bored and you were bored, it was a meeting of the minds. And now it's 3 p.m. and I can't leave too soon. Saying thank you, I had a nice time. Take me home, take me home, leave me there. Yeah, I don't wanna cry, I don't know why. Think I'm gonna sing myself a lullaby. Feel free, listen, feel free, yeah, feel free to stay. Rock-a-bye, baby, in the streets I love. When the wind blows, the cradle will rock off. When the bow breaks, the cradle will fall off. And down will come, baby, cradling our love. Maybe I'll live my whole life just getting by. Maybe I'll be discovered, maybe I'll be colonized. You could try to train me like a pet, you could try to teach me to behave, but I'll tell you, if I haven't learned it yet, you know I ain't gonna sit, I ain't gonna stay. Take me alive. Dopo Cradle and All di Annie DiFranco, anche oggi volevamo proporvi una delle interviste che abbiamo registrato durante l'ottava edizione del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria. È la volta del gruppo lesbico separatista di Brescia, Pianeta Viola, che ci racconterà la sua peculiare azione sul territorio lombardo. Allora, siamo Immaginaria e ci stiamo intervistando due donne e due compagne del Pianeta Viola di Brescia. Sono Chiara e Patrizia qui con noi, buongiorno. Che cosa volevamo farvi qualche domanda sulla vostra attività, e come è nato il vostro gruppo, da quanto tempo lavorate insieme, che tipo di lavoro fate insomma con le donne lesbiche? Dunque, noi siamo nate nel 95, siamo nate come un gruppo politico lesbico con delle finalità che poi sono cambiate nel tempo. Diciamo che all'inizio l'idea era nata da un gruppo di amiche di fare un gruppo appunto politico che si confrontasse su tematiche relative al lesbismo, e pensavamo di trovare nella nostra città delle donne che avessero un percorso simile al nostro. Quindi l'impostazione iniziale è stata di questo tipo. Ci siamo accorte col tempo che, pur essendo la nostra città una città molto ricca di lesbiche, queste lesbiche non erano disposte ad impegnarsi in quanto tali. Infatti ci siamo incontrate, c'erano dei gruppi di donne lesbiche organizzati che seguivano il pensiero della differenza, erano stati i nostri punti di riferimento, ma di fronte alla nostra visibilità non hanno voluto in qualche modo entrare in relazione con noi. Nel contempo hanno cominciato ad arrivare molte donne giovani, e quindi è stato necessario ridefinire anche quello che era il nostro progetto. Ci sono state difficoltà, parte delle compagne se ne sono andate perché non si riconoscevano in questo ruolo. chi è rimasta, e siamo rimaste in 4 su 10 tutto sommato, si è approvato invece a confrontarsi con questa nuova realtà, con questa esigenza che veniva di confrontarsi con delle donne molto giovani. E devo dire che è stata la carta vincente, nel senso che abbiamo cominciato a impostare il lavoro in modo completamente diverso. Abbiamo cominciato a fare degli incontri in cui abbiamo applicato quelle che erano delle tecniche che noi usavamo per lavoro, quindi delle tecniche di lavoro di gruppo, tecniche interattive, per cui si affrontano tanti problemi in maniera molto, come si può dire, in maniera che favorisce il coinvolgimento delle persone, non c'è mai un giudizio sulle persone, per cui i ragazzi hanno cominciato a venire a confrontarsi su tante cose. Abbiamo affrontato il separatismo, una delle prime serate, che era è stato un grosso punto discriminante, perché queste ragazze molto spesso avevano amici gay e quindi a cui erano molto legate, non riuscivano a capire perché venire in un gruppo separatista e perché lasciare fuori dalla loro vita, magari anche solo per questo, i ragazzi. È stata una serata splendida, abbiamo lavorato davvero, abbiamo fatto uscire le paure attraverso la definizione del dizionario, eccetera, eccetera, e alla fine della serata quello che prima in un brainstorming era stato definito ghettizzazione, muro, è diventato intimità, voglia di stare insieme, cioè si era completamente ribaltata la concezione, e da allora noi non abbiamo più avuto bisogno di tornare su questo problema del separatismo. Questo è molto bello, Patrizia, perché se consideri che la questione del separatismo ci viene sempre ributtata in faccia a tutti i gruppi separatisti, insomma, in generale, e su questo tipo di argomento dobbiamo sempre ritornare a discutere, come se appunto viene individuato come ghetto, come dicevi tu, oppure come un qualcosa che separa e basta e non fa interpretare la realtà per quella che è, no? Infatti. Ma la definizione del dizionario era positiva, infatti anche noi siamo partite, è una definizione positiva di chi si identifica rispetto a dei valori comuni, per cui mentre in un primo tempo nel brainstorm erano uscite tutte le cose negative, di fronte alla definizione oggettiva del dizionario, la prospettiva anche in cui ci si poneva anche nelle ragazze è cambiata, e devo dire che, per cui effettivamente poi noi facciamo esperienze, abbiamo collaborato anche con Azione Gay Lesbica per il progetto Daphne, con i compagni di Orlando, c'è un gruppo maschile a Brescia, su alcune cose politiche collaboriamo anche perché siamo una città piccola, però ecco, con un percorso poi all'interno nostro che è ben chiaro e definito, poi sul piano politico possiamo avere degli accordi, però la cosa ben chiara è rispetto al percorso interno del pianeta è un percorso tra donne, perché comunque ha una sua connotazione ben precisa. Quest'anno, dopo 2 anni, abbiamo affrontato il discorso della sessualità, cioè dopo 2 anni in cui abbiamo fatto questi percorsi che si snodano lungo 7-8 incontri annuali, una volta al mese. L'anno scorso abbiamo fatto il gruppo, le relazioni nel gruppo, e quest'anno abbiamo invece impostato sulla sessualità perché ci sembrava che si potesse, fossero mature per affrontare questo discorso. E quindi abbiamo preparato un progetto. Con una serie di incontri fate per questo progetto? Questo progetto si articola in alcuni incontri, una volta al mese, il giovedì, e qui abbiamo cercato di riassumere un po' i titoli. Siamo partite con Le parole per dirlo, perché questo è il bello dell'amore. Le ragazze sono rimaste un po' scioccate perché avevano visto la parola amore ovviamente, ma poi ci siamo fermate molto sulle parole per dirlo, le proprie definizioni, quello che dici mentre fai l'amore, così. Quindi c'è stato un attimo, sono rimaste un po' allibite perché... Poi abbiamo affrontato La trappola del desiderio, Il sesso senza sentimento, Segreti, silenzi e bugie. Il prossimo sarà alle porte, quindi sarà il primo giovedì di marzo, alle porte dell'Are, fedeltà a se stesse e o alla propria partner. Seguirà Desideri in libertà, Fantasie, fuochi d'artificio, e l'ultimo incontro invece lo riserviamo al maschile che c'è dentro di noi. Questo corso sarà teorico-pratico, per cui la parte pratica abbiamo pensato di organizzarla con una visita alla MAM. A Torino c'è una MAM bellissima, che siamo già andate a vedere, gestita dalle donne arabe, quindi pensavamo di fare un'uscita tutte insieme e poi fare uno stage con la Gloria Fenzi, questa donna che si occupa di ayurvedica, quell'altra tecnica di, come si può dire, comunicazione corporea, insomma. E anche qui pensavamo di fare 3 incontri, uno sulla su se stesso, su stesse, uno sulla relazione con l'altra e una sulla parte maschile e femminile che c'è in noi. Senti, questi sono sicuramente molto interessanti. Hai dimenticato di dire una cosa importantissima: il vostro indirizzo, adesso il vostro telefono. Allora, se volessero... Dunque, noi siamo affiliate all'ARCI, nuova associazione, quindi siamo nella sede dell'ARCI, che a Brescia è in via Villa Glorio 10B. Il nostro numero di telefono è lo 030 24 10 604. Siamo aperte per l'accoglienza ogni giovedì dalle 21 alle 23. Poi organizziamo anche incontri nelle altre giornate, comunque facendo riferimento lì si può chiedere informazioni. Ma voi questi sono incontri, a me sembra di aver capito, già strutturati con delle donne più che voi già, con le quali voi già siete in relazione. Noi abbiamo poco tempo fa trovato su internet date vostre di incontri che noi abbiamo dato per radio tranquillamente, ma ci sono anche altri incontri che voi prevedete di lanciare, tipo, non so, seminari più allargati? Diciamo, questi sono aperti sempre. Ah, questi sono aperti comunque. Proprio per le modalità con cui lavoriamo, non è necessario aver frequentato il corso dall'inizio, sì. Perché comunque chi arriva, infatti arrivano a volte donne nuove, ed è più facile che si inseriscano lavorando in questo modo che magari venendo la serata in cui sei al centro dell'attenzione, sei appena arrivata, mentre invece all'interno di questo tipo di lavoro comunque tutte partecipano, perché tutte sono coinvolte, chi è lì accetta comunque di mettersi in qualche modo in gioco poi. Per cui è possibile arrivare anche a uno solamente di questi incontri e partecipare a uno solo di questi. Poi vogliamo organizzarci per il Pride, cioè vogliamo organizzare un pullman solo con le donne, infatti ci hanno chiesto, ma perché non chiediamo anche ai ragazzi? No, almeno 55, Brescia è piena di lesbiche, ci piacerebbe riuscire almeno a fare. L'ultima volta ci siamo andate con la prima parola e l'ultima, con tutti i gruppi della città, e quindi ci troviamo la settimana prossima, proviamo a stendere una lettera e invitarle a un incontro su questo. Abbiamo davvero dato solidarietà a tutte, sempre, sarebbe minimo che da parte loro ci fosse un minimo di solidarietà anche rispetto a questo evento, che comunque anche per queste continue intimidazioni del Vaticano, insomma, è una pesantezza, per cui proviamo. Non so, magari veniamo solo in poche, in treno. Senti, io ti volevo fare una domanda perché sono molto incuriosita rispetto al discorso che hai fatto tu del coinvolgimento, no? Allora, voi avete detto che arrivano delle ragazze giovani, no? E noi ci rendiamo conto che il coinvolgimento di tutte queste nuove lesbiche diventa sempre più complicato, anche perché noi abbiamo una modalità che è quella politica, tra virgolette, che spesso e volentieri non interessa le ragazze, no? Allora, è repellente, cioè è respingente, è repellente, non vorrei dire una parola, è respingente. Allora, volevo sapere, svelateci il vostro segreto, nel senso, cioè come fate, come sono strutturati questi incontri che vi consentono di prendere l'attenzione di questi giovani? Sul separatismo infatti ci siamo scontrate con le compagne un po' più anziane di noi, perché loro volevano fare la tipica conferenza in cui loro avrebbero risversato su queste giovani menti ignoranti tutto quello che sapevano sul separatismo, eccetera, eccetera. Sarebbe servito a niente, perché ognuna avrebbe messo il proprio muro. Se vuoi ti posso riassumere brevissimamente come abbiamo impostato la serata. Allora, siamo partite con un brainstorm, cioè le abbiamo divise a gruppi, erano circa 30-35. Siamo partite col brainstorm, gli abbiamo dato dei grandi cartelloni, ognuna doveva scrivere le parole, le prime parole che venivano in mente pensando al separatismo. Avevamo due donne di una coppia in due gruppi diversi, era incredibile perché una ha disegnato le stesse cose che l'altra ha scritto: muro, separazione, paura, cioè davvero tutta una ghettizzazione, tutta una serie di termini. Poi secondo lavoro, e qui ce n'era qualcuna di politicizzata, per fortuna qualcuna di qualcuno avesse qualcosa di positivo, ma era proprio poca cosa perché in genere non erano donne politicizzate. Secondo lavoro sul, invece, la definizione del dizionario, che era una definizione molto positiva. E quindi, non so, abbiamo chiesto, condividi questa definizione. Leggendo questa cosa, loro stesse hanno cominciato un attimino a smuoversi. Per cui anche lì la discussione, anche perché nel gruppo si chiedeva poi di arrivare a una posizione comune rispetto a questo. E quindi già lì non c'era più questa rigidità rispetto a questo. L'ultima domanda che abbiamo posto era, pensi di avere più donne in comune, con più cose in comune con un'altra donna o con un gay? E su questo devo dire che tutte hanno messo una donna. E quindi, in qualche modo hanno dovuto rimettere tutti loro nella scala di valore. In discussione tutto, molto interessante. E alla fine della serata, comunque abbiamo provato a fare invece un brainstorm di a voce, e insomma le cose conosciute erano esattamente all'opposto. Così. Cioè, in questo modo effettivamente cambi la prospettiva di approccio alle persone, non le prendi, le metti fanno un percorso personale loro e poi non c'è mai così di giudizio, quando una parla assolutamente, perché poi abbiamo fatto lo stesso sulla definizione, come ti definisci, no, che lesbica, tante bisessuali, alcune, quelle più impaurite, bisessuali, no? Sempre arrivano, ma noi siamo bisessuali, dobbiamo portare bene, è una margherita, ognuno doveva scegliere un petalo così. Però poi, ecco, attraverso la serata, anche le cose si sono modificate, per cui uno degli obiettivi, il minimo che abbiamo nel nostro gruppo, che però, che tutte usano la parola lesbica, che sembra un obiettivo minimissimo, no, ma non lo è. Ma non lo è, non lo è affatto. Almeno usano la parola lesbica, poi è. Bene, noi pensiamo di potervi salutare, se, se possiamo mantenere un livello di collaborazione, qualsiasi cosa voi abbiate da, da far sapere, da far circolare, insomma, è un modo, è quello di tenerci in contatto, perché anche noi siamo un gruppo separatista, voi lo sapete, e quindi bene così. Grazie a Patrizia, grazie a Piera. Abbiamo il numero di telefono, devo ripetere. Sì, non avete email, vero? No. No, bene. Ce l'abbiamo, ma è personale. No, va bene, no, no, allora. Ripeto, il numero 030 24 10 604. E siamo aperti il giovedì dalle 21 alle 23. Ok, va bene, benissimo, ciao. Ciao, ciao. Ringraziando Lucilla e Caterina per l'intervista e musica con If You Leave Me di Laura Love, mentre la musica che sentite di sottofondo sul parlato è della pianista lesbica Inge Latz. You leave me now. gli appuntamenti. Il Recycle di Milano in via Calabria 5 propone mensilmente alle 17 l'iniziativa Cari Autrici, degli incontri letterari organizzati in collaborazione con la Libreria delle Donne. Verranno presentati il 15 aprile Sesso e Genere di Maria Naidotti, il 13 maggio Marina Marina Marina di Margherita Giacobino e il 10 giugno Orizzonti di Boria di Pat Carra. A Roma, ogni primo e secondo sabato del mese, al Jolicoeur in via Sirte 5, ed ogni seconda domenica del mese, al Goa, in via Libetta 13, serate disco solo donne organizzate da Venus Rising. Il secondo giovedì di ogni mese, alla Cantina, in via Lucrino 28B, serate con musica, spuntini e drink, sempre solo per donne, organizzate da Le Dispettose. Dopo il successo italiano del Festival Internazionale del Cinema Lesbico Immaginaria, si avvicinano due importanti appuntamenti per i Festival del Cinema delle Donne. La 22esima edizione per Parigi dal 24 marzo al 2 aprile alla Maison des Arts di Créteil e la 10ª edizione di Féminin à Colonia dal 12 al 17 ottobre. Organizzata dall'associazione Bagdam Café di Tolosa, dal 10 al 12 giugno si terrà sulla costa sud della Francia, a Port-le-Coux, vicino Perpignan, l'Assemblea Generale di Primavera della Coordination Lesbienne Nationale. L'incontro tra le 20 associazioni e le singole che costituiscono il coordinamento sarà incentrato sulla visibilità esterna della politica lesbica in Francia. Discriminazioni, rapporto con le istituzioni, Pax, relazioni con i gay, le femministe e i partiti. Per informazioni telefonare allo 0033 5 624 83043. Il 19 marzo scorso presso il Cassero di Bologna si è tenuta una riunione tra i vari circoli di Arcilesbica, il Circolo Morisse di Torino, Azione Gay e Lesbica e le associazioni lesbiche separatiste Visibilia, Desiderande e Coordinamento Lesbiche Romane. L'argomento era il tentativo di trovare uno o più punti di incontro per organizzare iniziative lesbiche nell'ambito del World Pride di Roma. Questo primo incontro, caratterizzato dal resoconto di Arcilesbica Roma sulla riunione tenutasi il giorno prima presso il Mario Mieli, associazione organizzatrice del World Pride, ha avuto carattere interlocutorio e i vari gruppi hanno deciso di prendersi un momento di riflessione e di rivedersi a breve per concordare le iniziative da proporre. Ringraziando la redazione della bollettina del CLI, dalla quale sono stati tratti gran parte degli appuntamenti che vi abbiamo proposto oggi, vi ricordiamo che siete all'ascolto di È una calamità di cui ci rendiamo perfettamente conto, trasmissione autogestita a cura del coordinamento lesbiche romane sugli 87.900 di Radio Onda Rossa. Chiamateci ogni mercoledì dalle ore 21 allo 06 68 64 201, telefono, fax e segreteria telefonica, oppure qui in radio allo 06 49 17 50. Il nostro indirizzo di posta elettronica è clrbp@hotmail.com. Beauty Queen delle Smiths. Yeah. Ebbene sì, anche io vi parlerò di diritti civili. La notizia di questa settimana sembra essere l'approvazione da parte del Parlamento europeo del documento sui diritti civili, un documento che spazia dai diritti sociali ed economici alla difesa dell'infanzia, dalla parità tra uomo e donna fino al riconoscimento delle coppie di fatto, siano esse etero o omosessuali. Miriam Mafai sulla Repubblica ne parla come di un documento che disegna una sorta di cittadinanza europea, un documento che getta le basi per eliminare o per ridurre quasi del tutto le distanze tra un cittadino danese e uno spagnolo, una famiglia francese e una famiglia italiana. La novità del documento appare proprio in tema di famiglia, o per meglio dire, di stili di vita, forme di relazioni e di orientamento omosessuale. Ad esempio, l'articolo 54, approvato con 251 voti a favore e 169 contrari, sollecita gli Stati membri a dare pieno riconoscimento alle coppie di fatto, si tratti sia di etero che di omosessuali. Cosa scatenerà in Italia tutto ciò? Da noi non è stato ancora risolto il problema delle coppie etero che abbiano deciso di vivere insieme senza contrarre matrimonio, civile o religioso. L'invito del Parlamento europeo a garantire alle coppie non sposate una parità di diritti rispetto alle coppie e alle famiglie tradizionali, in particolare in materia di legislazione fiscale, regime patrimoniale e diritti sociali, si riferisce in modo esplicito anche alle coppie dello stesso sesso. Gli schieramenti ci sono stati anche nelle votazioni, sinistra e liberali da una parte, destra e popolari dall'altra. E intanto la Svezia annuncia che dal 1 luglio, se sarà approvata la proposta del governo, anche i gay e le lesbiche stranieri potranno sposarsi in quel paese, come già fanno i suoi cittadini. Chiaramente la decisione di Strasburgo ha un solo valore politico, formale, visto che non impone nessun obbligo di attuazione ai governi. Strasburgo deplora pure che nei codici penali di taluni stati siano vigenti disposizioni discriminatorie sull'età del consenso del minore per rapporti omosessuali, nonché altre discriminazioni, in particolare nell'esercito. A favore hanno votato anche il PSE in massa, i liberali, erano assenti i prodiani, ma è un caso, alcuni popolari del nord, verdi, comunisti, assenti radicali che festeggiano in ogni caso. Fra i contrari dei popolari italiani ci sono solo Bodrato, Cocilovo e De Mita e Marini non hanno votato come Vittorio Sgarbi e Costa di Forza Italia. La destra appare preoccupata. Gustavo Selva di AN afferma che la decisione di Strasburgo contrasterebbe clamorosamente con l'articolo 29 della nostra Costituzione, che se ricordo bene dovrebbe affermare che la Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Mi rendo conto di essere oltremodo noiosa e di non dire nulla di nuovo, ma la nostra Costituzione non è composta anche dall'articolo 3, lo ricordate tutte, vero? Non è il caso di citarlo. Altri si indignano per l'equiparazione delle coppie omosessuali alla famiglia tradizionale. Grillini, presidente onorario dell'Arcigay, sottolinea anche che la Costituzione non parla specificamente di matrimonio tra persone di sesso diverso e la maggior parte delle associazioni gay italiane esultano. Vediamo qual è la situazione negli altri paesi europei. In Danimarca i matrimoni tra persone dello stesso sesso sono legali dall'89 e le coppie godono degli stessi diritti in materia di alloggi, di pensioni e di immigrazione. In Svezia il Parlamento svedese ha approvato nel 94 la legge che regolarizza la convivenza tra omosessuali e prevede la parità di diritti e di doveri con le coppie eterosessuali sposate. In Olanda i primi matrimoni tra omosessuali si sono celebrati nel gennaio del 98, appena entrata in vigore la legge. In Spagna il Parlamento della Catalogna ha approvato nel 98 la legge delle unioni stabili di coppia, che pone le coppie gay e lesbiche giuridicamente quasi sullo stesso piano di quelle eterosessuali. In Francia il patto civile di solidarietà, approvato alla fine del 99, introduce una sorta di matrimonio omosessuale e inserisce nel codice civile una definizione di concubinaggio per coppie omosessuali, consente la denuncia dei redditi in comune, facilitazioni sull'affitto per la previdenza sociale e sulle successioni. In Gran Bretagna sono più riconosciuti de facto che de jure. Tra l'altro, la Mutua ha recentemente finanziato dei corsi per informazioni sull'AIDS tra omosessuali. E in Italia? In Italia abbiamo la rabbia della Chiesa. Le affermazioni arrivano a paragonare la decisione ad un evento peggiore di quello della caduta dell'Impero Romano. La decisione è vista come un duro attacco ai valori della famiglia tradizionale. La Chiesa Cattolica non ci sta. La Santa Sede, ahimè, non farà nessun passo per protestare contro il voto del Parlamento Europeo, perché lo status del rappresentante pontificio presso il Parlamento Europeo è solo di osservatore permanente. Ma manifesteranno in ogni modo la loro viva preoccupazione. Primo atto della manifestazione, il cardinale Lopez Trujillo, stretto collaboratore del Papa e direttore del Pontificio Consiglio per la Famiglia, esorta deputati e senatori cattolici a ribellarsi e a non favorire con il loro voto questo tipo di legislazione, perché afferma è contraria al bene comune, alla verità dell'uomo e mina il tessuto sociale. Ma non è solo la Chiesa che si indigna, perché il voto europeo va contro la natura dell'uomo. Il Polo, dal canto suo, ha già promesso barricate nel caso il governo italiano fosse tentato di seguire le raccomandazioni di Strasburgo. Fini annuncia dura opposizione in Parlamento, qualora il governo recepisse l'invito di Strasburgo. Stiamo parlando di diritti, a cui tra l'altro sono poco interessata, perché a mio parere sarebbe il caso di normare l'abolizione del matrimonio e l'introduzione del diritto civile del singolo, chiunque esso sia. È una lotta più dura, ancora più difficile, che scardina modelli precostituiti, ma è purtroppo ancora utopia e lo sarà ancora a lungo. Dicevo, stiamo parlando di diritti civili che le coppie etere acquisiscono con pochi sforzi e che alcune coppie lesbiche e gay cercano faticosamente di conquistare, ed è una lotta dura. Ma il rispetto, quello che non passa attraverso il diritto, la norma, il codice, il rispetto, quello che trasmetti alle persone che ti circondano, ai tuoi figli, ai tuoi alunni, dov'è?